Caro genio, dall'ultima volta che ci siamo incontrati sono cambiate tante cose. Ricordi i 3 desideri che avevo espresso? Hanno fatto di me un bambino diverso. Il primo desiderio era avere tanti soldi. Per un po' è andato tutto bene, ma pian piano i soldi sono finiti e con loro alcuni amici che mi stavano vicino solo per i miei giochi. Il secondo desiderio era avere una macchina sportiva, una bella Ferrari rosso fuoco, ma essendo un bambino non potevo guidarla. Ero stato uno sciocco. Una sera, mentre stavo dormendo, me l'hanno rubata proprio sotto casa. Il terzo desiderio, se ti ricordi, era quello di vincere sempre i tornei di Yu-Gi-Oh! Ma anche questa non era stata una buona idea, perché vincere sempre mi aveva stancato e nessuno voleva più giocare con me. In effetti vincevo solo grazie alla tua magia e non per le mie capacità. Ora ho capito tante cose e sono cresciuto. Sono più responsabile e mi impegno per diventare grande con le mie forze, non grazie al tuo aiuto magico. Caro, se potessi esprimere 3 nuovi desideri, questa volta farei delle scelte diverse che aiutino me a crescere come un bravo bambino e che facciano del bene anche agli altri. Ho capito che tante persone hanno più bisogno di me, di un aiuto, e che aiutando gli altri ci si sente meglio. Ti saluto e non ti preoccupare, perché sono felice con le cose che ho. Un grande bacio, Filippo.